dispiace veramente che sono ancora qui a parlare di noi, ma è il mio modo di espiare colpe a cui non sono date alternative valide. E c'è la notte che mi conturba con tutta la sua intimità. Questo fa con te. Prima come una folata ti ha segnata con le lacrime. Era l'ira minacciosa che soffiava dalle nostre bocche amare e stupide. Ti preserva dalla mia intimità, ma chissà se ti riserva desideri e la paura della bontà, come fa con me. Eri così bella nella tua complicità, l'anima gemella della mia felicità. Ero io così per te, ma l'incantesimo, la mia bacchetta l'ha spezzato poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Ti dispiacerà per sempre che ero ancora lì a parlare di noi, ma mi son messo a camminare e confido che qualcosa prima o poi mi distrarrà. C'è la nebbia al suo biancore, c'è un ubriaco da sorreggere. Io vorrei solo scoprire se anche tu hai delle colpe che non puoi eludere. E la notte ti preserva dalla mia intimità, ma si insinua lentamente fra i verami della mia sensibilità. Così bello nella mia complicità, l'anima gemella della tua felicità. Eri tu così per me, ma l'incantesimo, la tua bacchetta l'ha spezzato poco a poco. Eri tu così per me. Spend